Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Oggi prima puntata della settimana insieme all'Adico, saluto il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, il tema di oggi riguarda gli uffici postali, perché se una volta alle poste si andava soprattutto per spedire raccomandate, imbucare e spedire pacchi e magari a prendersi anche la pensione, adesso gli uffici delle poste fanno veramente di tutto, no? Dall'altra parte trovi un servizio molto vasto e questo implica poi anche code eccessive e tanta burocrazia. Sì, qualche giorno fa Adico ha incontrato i vertici delle poste italiane, i quali hanno diffuso dei dati e sull'onda di questi dati l'Adico ha voluto un po' confrontarli, ma soprattutto ha preso spunto per farne altri e misurare quello che è un po' lo stato delle poste e il grado di servizi che questo offre. E certamente un po' anche tutte le problematiche che insomma ruotano intorno a questo ente, che certamente ne ha anche loro tutti i colori da raccontare. Certo è che, come hai detto tu, emerge come oggi si ha più la sensazione che quando si entra in posta si entra dentro un mini market anziché dentro un servizio postale, e dà molto fastidio il risultato anche un po' di questa indagine, come le persone che non hanno il conto corrente si sentono un po' trattate di serie B rispetto alle altre, con l'aggiunta che dà anche quanto fastidio sentirsi sempre proposte di offerte finanziarie anziché altri generi di offerte, perché comunque troppo spesso gli sportellisti cercano sempre di convincerti alla fine di aprire un conto anziché, ecco, spedire una raccomandata. Questo un po' per semplificare il concetto. Infatti trovi dai libri della cucina ai gadget per bambini, e tu magari sei entrato per andare, ahimè, a pagare o una multa o una tassa con l'F24. Ah sì, poi ci sono i separati in parte che ti fanno le proposte di conto corrente, di fondi, di risparmio e quant'altro, che alla fine non hanno niente a che fare con la raccomandata. Però comunque, tornando all'indagine, sono emerse due cose, sia parlando dal punto di vista negativo che positivo. Allora, negativo, chiaramente ci sono le code, che certamente queste si confermano come la cosa più odiata del nostro campione. L'offerta esagerata dei prodotti, certamente, che anche qui appunto infastidisce molto, e dopo scopriamo un po' di curiosità, anche se dato è meno rilevante, magari anche che non c'è un buon feeling tra chi opera dietro i banconi e le persone che si rivolgono a queste persone che lavorano. Mentre tra le varie note positive c'è comunque il fatto che c'è una buona capillarità nel territorio, quindi bene o male gli uffici postali si trovano, e le sedi sono state anche abbastanza adeguate, c'è una certa propensione a migliorare quelli che sono gli strumenti tecnologici, e a livello locale, solo a livello locale, c'è un buon rapporto con le associazioni dei consumatori che hanno consolidato dei canali per risolvere controversie, anche se per altri tipi, come per esempio quelli finanziari, purtroppo ritorna la centralità delle poste e quindi l'odissea che tutti insomma abbiamo imparato a conoscere nella nostra esperienza di vita. Ecco, tu parlavi delle code, devo dire che anch'io mi sono trovato una volta ad andare a pagare proprio un F24 e c'era una signorina molto carina che stava dietro al bancone che vendeva gadget e quant'altro, che era lì, che non faceva nulla, aspettava, e c'era tantissima gente in coda. Quella signorina l'avrei vista proprio bene dall'altra parte a smaltire il lavoro in quel momento che serviva e non ad aspettare il nulla. Forse dovranno rivedere un po' alcune cose alle poste, agli uffici postali. Sicuramente, anche se pagano comunque una riorganizzazione che è abbastanza stata selvaggia, e anche si trovano a dover fare delle mansioni che presumo mai si sarebbero augurati di dover fare, sì. Come un po' i sportellisti che lavorano alla banca rispetto a quelli che prima mettevano il timbro sulle buste. Ma venendo all'indagine, volevo dare qualche dato giusto per validare un po' il lavoro che ha fatto l'Adico. Per esempio, i punti di forza delle poste italiane per i consumatori sono appunto la capillarità sul territorio 72%, innovazione tecnologica 10%, rapporti con le associazioni 18%. Punti di debolezza invece c'è un'eccessiva burocrazia 24%, un'eccessiva coda di attesa 32%, di servizi postali 13%, eccessive offerte extra postali 16% e il personale insomma l'8%, che non è certo poco, ma comunque c'è. Per quanto riguarda i problemi, abbiamo primo il PostePay. Noi come Adico abbiamo avuto centinaia di casi di persone che hanno avuto debiti fraudolenti sulle carte ricaricabili e questi sono i motivi per cui i consumatori si sono rivolti all'associazione. Quindi PostePay 35%, pacchi postali mai giunti a destinazione o rotti 23%, corrispondenza 19%, banco posta 11%. Alla fine arriviamo anche ai servizi finanziari, dove abbiamo anche delle controversie con i buoni fruttiferi, l'8%. Poi c'è tutto il rapporto con le imprese, invece, dove alla fine si manifesta come quando ci sono dei problemi c'è un'assenza di interlocutori per il 56% del nostro campione, e come c'è una difficoltà a conciliare per problematiche che vanno oltre la nostra territorialità per un ulteriore quasi 60%. Allora, questi un po' sono i dati che sono un po' evidenziati. Per ultimo, le problematiche che l'Associazione dei Consumatori ha avuto in questo periodo: il primo ha riguardato l'utenza 23%, il secondo ha avuto turismo 12%, le multe 10% e il commercio 11%. Questi sono un po' gli argomenti principali che come associazione abbiamo avuto, per cui ci siamo rivolti anche dell'aiuto delle poste per arrivare un po' anche a destinazione sulle nostre attività. Bene, quindi sappiamo che insomma c'è sempre l'Adico disponibile se ci fossero dei problemi proprio anche con le poste. Ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it, dove questi dati che un po' hai snocciolato e che abbiamo sentito li troviamo anche in un bel articolo completo direttamente nel sito dell'Adico. Grazie quindi al presidente Carlo Garofolini, alla prossima. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.